YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Daniele, volevo stare un po' da sola per pensare. Ah. E tu lo sai. Però quindi sei arrivato. Me ne devo andare. No. Tra l'altro fa freddissimo qua dentro. Ci credo che detto. È la sciarpa. E ho sbagliato, ho abbassato. Come... Aspetta, senti questa canzone. Sentiamo. Ho sentito. Perché senti, E tu non vive troppe cose che credevo morte ormai. Versione di Mina, bellissima, senti. Che ho tanto amato dal mare del silenzio. Dal mare del silenzio elettorale. Ritorna come un'onda. Ah. Ritorna come un'onda nei miei occhi. La voce del silenzio elettorale, Daniele. Questa è la voce del silenzio, la mandiamo in onda per un'ora. È la voce del silenzio elettorale, nella versione di Mina. Ma senti, stavo domandandomi, ma si può dire, diciamo, i comuni in cui si vota e i comuni no, per esempio? Quello si può dire, si i comuni dire, in cui si vota e i comuni no, possiamo dire city. Come si vota, si vota. Si vota. Si può dire come si vota, a che ora si vota. Sì, dalle 7 alle 23. Sì. 7, siamo sicuri? 7, 23 sono sicuro. Alle 7 sono sicura. Si può dire dove si vota, dove non si vota, e però vedo il signor garante, esatto, qua dietro. Però oltre a... noi cantiamo la cantiamo. Voce del silenzio elettorale. Quindi noi la sento del mio cuore, nel mio cuore. La prossima settimana c'è già la par condicio del doppio, esatto. Degli eventuali ballottaggi. E quindi niente, praticamente, ragazzi, che siete all'ascolto, ci rivediamo a settembre quando no, sapremo dopo, chi sono quando i abbiamo sindaci. I sindaci possiamo tornare a parlare di politica. Che angoscia. Che non avevi visto mai, cosa vedi la voce del mai. Silenzio. Ma siamo sempre in par condicio. Ragazzi, cosa... la legge, la par condicio, anzi la par condicio elettorale è il silenzio elettorale. Sì, vabbè, allora. Però io vedo qua in scaletta che c'è scritto subito. Ah no, allora diciamo che cosa facciamo. In questa ora noi guardiamo la televisione alla radio. Guardiamo la televisione alla radio perché ci sono delle cose. Ci sono delle cose molto interessanti. Che ci sono e che ci saranno. Perché senza parlare di politica, non parliamo di politica. Però diciamo che la politica, senza far nomi, in questo periodo è entrata un po' nella televisione. Ma sempre, la politica entra in tutto. E noi faremo non il calciomercato. Entra nella politica, la politica entra in televisione. Certo, non faremo il calcio, ma facciamo il TV mercato. Il TV mercato, per sapere a settembre, per ora si sa chi non c'è. Chi non c'è? Dove? Ma magari c'è, ma da, magari altre c'è da altre parti. E quindi avremo un ospite, un esperto che ci dice se quelli che si sa che non ci sono da una parte ci sono da un'altra. Però non violiamo la par condicio, no, perché parliamo dei conduttori. Non parliamo dei partiti. E poi? E poi parleremo di jazz. Sì, no, beh, quello parleremo è una di cosa jazz, che e poi sappiamo. Parleremo del successo televisivo. In questo periodo parliamo di Colafiore. Bambea, abbiamo parlato la scorsa settimana. Posso dire, ti ricordi che io avevo detto, se regge così quattro puntate, come ti è piaciuta la seconda? Un po' meno. Era quella un po' interlocutoria. La seconda è sempre quella interlocutoria. E ci fermiamo qua. E poi però mi hai segnalato che c'è qualcuno che ha fatto un comizio. Ma si può mandare questo comizio? Secondo me questo sì. Perché hai detto che si può parlare di dove si vota. Sì. Allora, uno dei posti dove si vota è una città molto importante, non la dico perché non si sa mai, dove passa un fiume molto grande. Si può dire il nome del fiume? Si può dire Tevere? Sì, si penso, può dire perché Tevere. Passa in tante città. E perché abbiamo assistito a questo comizio? Sentiamolo. Arrivo adesso al settimo e ultimo punto cardine del nostro programma. Signori elettori, ma sto fiume... vi piace o non vi piace? Ci serve o non ci serve? Perché se ci serve, allora io lo voglio vivere, lo voglio navigare, ci voglio pure fare bagno al limite. Ma se non ci serve, e io dico che non ci serve, signori, non ci serve, levamolo. Dai, levamolo! Levamolo! Però, mancava solo questo. Sai che è carina questa cosa? Levamolo, sì, ma... Levamolo. Cavolo, stavo cercando di vedere cosa hai scritto sulla maglietta. Io non riesco a capirlo, vabbè, non importa. È una marca, credo. No, prima avevo la maglietta di Omar Pedrini a maniche corte bianca, però poi, siccome qua dentro fa freddissimo, ho detto maniche corte. No, ho sbagliato, l'ho detto prima in diretta che ho abbassato. Sì, perché... vabbè, insomma, niente. No, comunque, il modo con cui Carlo Verdone su Facebook ha augurato buon voto. Si può dire buon voto? Buon voto, si può dire, si può dire buon voto a tutti. Allora, oggi che cosa è successo, anzi stanotte? Beh, devo dire che io non mi immaginavo tanta partecipazione. Come? Da parte di tutti. Sì, perché era un grande personaggio, ma davvero era rimasto nel cuore di chiunque in maniera... Così forte, così intensa. Ma guarda che anche io, che non mi intendo di box, così si capisce di chi stiamo parlando, per niente, non l'ho neanche mai seguito, però che forse è il più grande sportivo del secolo scorso da tutti i punti di vista, lo sapevo persino io. Allora, sportivo ma non solo, certo. Sportivo e grande protagonista dei diritti umani, Muhammad Ali, e come qualcuno ancora lo ricorda col suo nome precedente Cassius Clay, ci ha lasciato questa notte. La notizia è arrivata in Italia all'alba. Abbiamo qualcosa da mostrare alla radio? Ce Sentiamolo. L'abbiamo? Ce l'abbiamo. No, I don't run, I dance. Sugar Ray never did run, he danced. I told you, I float like a butterfly. I don't run, it's a different in dancing. I can knock a man up, backing up. Float like a butterfly, sting like a bee. Vola come una farfalla e pungi come un'ape. Beh, è rimasta storica questa sua definizione. Incredibile. Grandissimo. Grandissimo lottatore per i diritti civili, lottatore contro una malattia, fino al punto di portare con l'immagine stupenda della fiaccola che si accende alle Olimpiadi con lui che mostra di combattere anche contro la propria malattia. Con la moglie che diceva wave the flag, hold the flag, agita la bandiera, afferra la bandiera, una cosa dolcissima, tenerissima e anche molto dolorosa. E poi anche un lottatore in politica, cioè non è che ha mai nascosto, anzi ha sempre in qualche modo... Stai già facendo il gesto? No, sto facendo il gesto perché lo guardiamo alla radio. There's one hell of a lot of difference in fighting in the rain and going to war in Vietnam. Boxing is nothing like going to war with machine guns, bazookas, hand grenades, bomber airplanes. Lui aveva deciso di non combattere in Vietnam, ma è una delle sue tante forti prese di posizione durante la sua vita. E devo dire che stanno veramente parlando tutti i leader del mondo, tutte le grandi personalità, e in tanti scelgono proprio Twitter per mandare Bill loro... Bill Clinton ha appena mandato un tweet. Sì, sono tantissimi, è veramente incredibile. Allora, salutiamo Muhammad Ali, magari al nostro prossimo ospite chiederemo qualcosa, chiederemo anche a lui un ricordo. A proposito di sport, Serena Williams ha perso. No. La Muguruza ha vinto Roland Garros. Ma non ci posso credere. Sì, guarda... Stavo guardando qualche punto prima, ma insomma mi sono poi entrata in studio. Serena Williams ha perso con il punteggio di 7-5-6-4. Accidenti. 7-5-6. Tra l'altro era da anni che non si vedeva una spagnola così forte. È spagnola, no? Sì, spagnola. Non si vedeva una spagnola così forte. Ti fa ancora Arancia Sanchez. Allora, Daniele, è il momento di una brevissima pausa. Il traffico. E poi parleremo. Non abbiamo detto et Marta Cagnola, et di Bellasio, cancelletto RadioTube, cancelletto ISDV. Ma anche 349-238-6666, SMS e WhatsApp a tra pochissimo. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta. YouTube. Beh, c'è un ascoltatore che lo mi ama molto, questa volta mi ha scritto inutile Coccodè. Ma inutile Coccodè mi piace. Ma in che senso inutile Coccodè? Perché sono una gallina, però inutile Coccodè mi piace. Ma in che fase del precedente blocco saresti stata? Non lo so, però è carina, inutile Coccodè mi piace. Va bene, io sono chicchirichì. Allora, uno dei successi della stagione. Uno. Il successo della stagione, sicuramente il successo del momento, della perché settimana. Non sono mica tante puntate, mi lamento, già mi lamento ufficialmente. Sicuramente il successo più social sbarcato in TV. Ma questo poco ma sicuro. Allora, ne mostriamo subito un pezzettino alla radio? Certamente. Eccola qua, Edicola Fiore. chiedi cosa voteranno al referendum. Cosa voterete al referendum? E vedi che anche loro dicono il voto è segreto. Va bene, parleremo dopo la sigla, magari. La sigla? Dopo la sigla, ce l'abbiamo la sigla. Senti, altre notizie? Hai letto sta cosa di Bastianich, perché è uno dei nostri, no? Uno di Sky. Certo. È stato indagato. È vero. Evasione. Dov'è che è successa questa cosa? Ma perché pare che. Ma cose di tasse, di ristoranti, ha fatto un ristorante in Friuli e allora ristorante in Friuli e ci ha in fatto Friuli. Eh? Friuli. Friuli. Friuli. 1, 2, 3, 4. Edico la fiore, edico la fiore, edico la fiore, porta un buon amore. Che siglona di Jovanotti per Edicola Fiore. Avete riconosciuto Fiorello, ma soprattutto avete riconosciuto quel bel conduttore. Ma quel gran bagai. Ma che bel bagai, ma che bel ragazzo. Buonasera Stefano Meloccaro. Non c'è. Abbiamo perso Stefano Meloccaro. Vedi? Beh, vedi, l'ho fatto spaventare. Quanto ti sei spaventato quando hai sentito il file che dicevano per cosa votate? No, assolutamente, no, soprattutto, non più che spaventato, ho detto, allora subito dopo si può parlare, Dopo. Lo ridico, perché adesso ce l'abbiamo, quel gran bel ragazzo, ma che bel ragazzo, ma che bel bagai, Stefano Meloccaro, buonasera Stefano. No, io vi sento forte e chiaro dal primo momento. Noi non ti sentivamo, Allora, beh, che esperienza è questa Edicola Fiore? Come ti sei trovato coinvolto in questa follia? Un giornalista sportivo così importante, tac! Ride già. Sciocchini. Dunque, no, io sto vivendo in una nuvola. Cioè, ho trascorso la settimana più bella della mia vita, perché io quello volevo fare da grande, capito? No, gioco a carte scoperte, nel senso, io sono sempre stato un grande appassionato di sport, ma chi mi segue un po', chi segue le cose che ho fatto su Sky, anche gli ingessati programmi di tennis che conduco, sa sempre che a me piace comunque trovare il lato un pochino più cazzeggiatorio della questione, no? Cioè, secondo me anche lo sport è intrattenimento. E poi mi sono trovato a lavorare a fianco del più grande intrattenitore dell'universo, per cui insomma, meglio di così questa settimana non poteva andare. Se eccettuiamo il momento in cui suona la sveglia, per il resto solo... A che ora? Per me che sono frazionaro, diciamo che vengo dalla campagna, anche alle 4. Però, sì, perché ti devi spostare, noi che abitiamo un po' fuori, ci mettiamo un po' a arrivare al lavoro. Accidenti. Sì. Ma com'è nata l'idea appunto di farla così, Edicola Fiore, su Sky? Allora, la gestazione del principale dell'azienda, che parlo di, sottintendo Rosario Fiorello, è durata circa 5 anni, cioè dai primi momenti... Con calma! Esatto, l'ha presa alla lontana, perché lui ha cominciato a fare l'edicola, come sapete, sul web, no? Col telefonino, e tra l'altro lui non si inquadrava mai, cioè non si vedeva mai, perché lui inquadrava gli altri, e parlava con gli altri e... ripeto, scherzava, rideva sulle notizie del giorno, più o meno serie, e io andavo semplicemente per divertirmi, perché lo conosco, e dunque quando capitavo a Roma all'alba, magari poi per andare a fare delle cose Roma-Lazio o interviste coni del genere, mi fermavo lì al bar, prendevo il caffè con loro e scherzavamo più o meno come avviene. Poi a Rosario è cominciata a venire l'idea di pensare di farla in televisione, ma il suo grande dubbio legittimo era, ed è sempre stato, riusciremo in televisione a rendere quel tipo di ambiente, quel sapore, cioè il sapore... La genuinità. Esatto, la genuinità, il casino, i personaggi veri, perché quelli sono tutti personaggi veri, cioè i John Wayne, Agonia, sono pazza. Io sono pazza del benzinaio, perché ha delle spiegazioni perfette per ogni notizia. Il pompa. Il pompa viene lì e poi va a mettere la benzina nelle macchine. Sì, ma lui spiega dall'inflazione alle crisi internazionali, spiega tutto, sa tutto. Sì, infatti Rosario è uno dei suoi preferiti, perché sa che è efficace, vedi tu Marta, te lo ricordi, per cui alla fine ha sempre ragione Fiorello. Sì. E il suo, ripeto, però il grande dubbio era, riusciremo a rendere, perché sai, un conto è col telefonino, un conto è comunque... quando poi ti ritrovi, sì, in un bar, perché siamo in un bar, però ci sono le telecamere, c'è l'assistente di studio che dice silenzio 3, 2, 1 in onda, le luci, capito? Allora lui aveva paura che questi personaggi si inibissero un po', invece questi non si inibiscono. No. Fantastico. E sembrerebbe funzionare, perché francamente mi sembra, cioè io finora ho sentito soltanto cose belle, non so se, ripeto, secondo me è una grande... Sto vivendo su una nuvoletta. Cioè, che bello. Tra l'altro va in onda la mattina alle 7:30, che per me è un po' presto. Io la sì. guardo su TV8, che va in onda alle 8, vedo mezz'ora dopo, vedo su TV8 che sono un po' più sveglia. E poi la sera nella versione un po' più cicciotta della sera, perché poi avete anche ospiti musicali e quindi... Sì, esatto, è così, per cui l'ospite musicale viene con noi, fa 5 minuti durante la diretta delle 7:30. Però poi, subito dopo la diretta, registra poi un quarto d'ora specifico dedicato a lui, in cui canta, suona, balla, e quel quarto d'ora viene poi aggiunto all'edizione della sera, capito? All'edicola fiore della sera. Per cui alla fine non è una replica quella delle 8:30, è un'altra cosa, perché c'è il meglio di quello che è andato in diretta più l'esibizione dell'artista. Come sarà la tua estate da giornalista sportivo? Sai che lo sto chiedendo a tutti i giornalisti sportivi, perché mi immagino che sia per tutti un'estate di lavoro, perché ma poi su Sky appunto, tra europei, Coppa America mondiali. Beh, la Muguruza. No, è tutto vero, nel senso che ieri è partita la Coppa America, che è una grande esclusiva Sky, e poi partono in contemporanea anche gli europei, per cui è veramente cioè si concatenano due eventi meravigliosi. Per me un po' meno, non nel senso che io non lavori, ma nel senso che col fatto che faccio l'edicola fiore, certo. che poi dopo c'è Wimbledon, io sono automaticamente esentato, con mio sommo dolore chiaramente, da questa storia degli europei perché... della Coppa America. Per cui il mio calendario è edicola fiore, poi Wimbledon e poi vacanza, dove facciamo il Laos, sempre con Fiorello sul web. Poi noi aspettiamo come sempre le foto, perché poi postate le cose, certo. Beh, non male comunque come calendario estivo, non male. No, non è mai, infatti, guarda. Senti, ma la Muguruza ha appena battuto Serena Williams, Ma infatti vi do quest'ultim'ora, bravo Daniele, perché è successo che Serena Williams non riesce... Vi ricordate da quella mitica, oramai mitologica, partita persa contro Roberta Vinci in semifinale a Flushing Meadows, quando poi ha vinto la pennetta? Da lì si è insinuato un bug dentro le chiappone di Serena Williams. Ach. E non vince più, ragazzi. Ha perso in Australia, ha perso qui contro la Muguruza. Cioè, Serena non è più lei. E comunque la Muguruza è un bel personaggio, perché è molto forte di testa, ed è anche un... Il ritorno della Spagna, poi. Sì, tanto gli spagnoli non vincono niente, per cui ci mancava soltanto... Infatti, uno sport in cui ogni tanto possono vincere, poverini. Vabbè, guardate, non è detto, gli europei non è detto. Gli europei non è detto, però comunque sono tra le prime tre di serie, insomma. Stefano, io non posso non approfittare della tua presenza per chiederti qualcosa su Muhammad Ali, perché tu hai twittato subito stamattina, hai twittato anche una cosa molto bella: il più grande che lotta anche per quelli piccolini. Sì, perché sai, Twitter funziona bene, perché ti costringe alla sintesi, no? E Muhammad Ali è difficile farlo capire, io l'ho visto da bambino, però comunque su YouTube c'è tutto. Era quello che era il Roger Federer del pugilato, perché era semplicemente perfetto, questo dicono gli esperti di pugilato, cioè era proprio lui volava sul ring, non toccava terra, era perfetto stilisticamente. E poi c'è sta roba che lui non andò a combattere in Vietnam, rinunciando praticamente al titolo mondiale, per cui si schierava e divenne il simbolo dei neri che non avevano potere e che non potevano far nulla, divenne il difensore dei deboli, capito? Per cui se unisci la forza del pugile al simbolo sociale, questo veramente è stato il più grande, c'è niente da fare, sarà pure retorica, ma è vero. Daniele, hai qualche domanda sportiva ancora da fare a Stefano? Perché altrimenti io chiedo qualcosa ancora su Edicola Fiore. No, vai su. No, voglio sapere, siccome io so che mi mancherà molto, perché 9 puntate sono, è una roba... Guarda, siamo tutti nella stessa barca, perché io già sto sentendo la nostalgia e ancora devo fare tutta la seconda settimana. Ecco, però per dire, magari, che so, può pure tornare, Allora, il progetto era fare 9 puntate, provare... tirare poi una somma, nel senso di ok, ci è piaciuto? Siamo riusciti a ricreare quell'atmosfera? Rosario disse ci daranno contro tutti i giornali e tutti i giornalisti, io a queste domande noi dobbiamo dare soltanto risposte positive fino a questo momento, perché comunque hanno scritto tutti cose molto carine. L'atmosfera, come voi stessi sottolineate, mi pare che sia assolutamente gioviale e spontanea, per cui insomma speriamo che ci sia un futuro. Io lo spero, perché come voi capite sto vivendo un sogno. Che bello, mi piace. Ma io avevo il poster in camera di Rosario, cioè io entrai a lavorare nei villaggi turistici, cioè alla Valtour, quando lui smetteva. No! Che bello! Io pure, animatore. Lui faceva, Daniele Bellasio faceva il DJ, capito? Faceva il DJ. Ragazzi, è il servizio militare 2.0 i villaggi sono turistici. Sono d'accordissimo. Cioè, io ho sempre sostenuto che un'estate passata in un villaggio turistico valesse 3 anni di vita vissuta normale città, perché per numero di esperienze, io ho scoperto delle cose di me nei villaggi che non avrei mai immaginato se non fossi andato a lavorare per... perciò io ripeto, vissi nel mito di Fiorello e adesso mi ritrovo lì, capito, che questo mi coinvolge, facciamo le cose, cioè, il nostro Cristian Goldoni ha scovato un file in rete, non so cosa sia perché non l'ho visto, non l'ho sentito. Che cos'è, Valeria, manda? Fiorello. Ma Meloccaro, no, ma... No, è Meloccaro, ma le sai fare... Ma è bello, no, è bravo, canta bene, tutto. Poi... No, nego tutto, quello è Meloccaro che canta Fiorello con Fiorello che mi fa il coro, cioè, ma io tutte... ragazzi, ma io veramente, cioè, io tutte le volte mi commuovo quando faccio queste cose qui. Noi eravamo 2 estati fa nel villaggio e io... Lui era in platea e io mi misi in concorso con gli altri cantanti, c'era la serata in cui si canta quella con i premi, con la giuria, con le palette, e cantai Città vuota di Mina, ve la ricordate quella che lui cantò in Stasera pago io, le strade vuote e la folla intorno a me, e lui pian pianino salì sul palco e si mise a fare il coro. Cioè, io queste sono cose che non hanno valore, cioè non è inestimabile il ricordo di una cosa del genere. Allora io chiuderei con un appello. Aspetta, sì. Ma domani Djokovic o Murray? Stefano. Questa è una bella domanda. No, ragazzi, lasciatemi una pausa di riflessione. Cioè, è una settimana che mi sveglio alle 4. No, io ho paura di perderti, capito? Già c'ho l'ansia. Un po' la senilità, un po' la sveglia presta. Secondo me sarò molto banale, ma domani Djokovic, perché Murray si è preso quello sfizio di vincere la finale a Roma. Ma io sarei molto sorpreso se vincesse pure domani Murray. No, secondo me domani Nole si prende il primo Roland Garros della sua carriera, gli manca solo quello degli Slam e se lo merita proprio. Io tifo ancora Boris Becker, quindi si sa da che parte sto. Io invece ho molta simpatia per Murray, che è antipaticissimo, per cui a me sta molto simpatico. Vabbè. Tra l'altro calcola che si è separato dalla sua allenatrice Moresmo, che ha confessato dopo averlo lasciato che la insultava proprio durante le partite, quando lui si arrabbiava perché sbagliava qualcosa, si girava verso di lei e la insultava pesantemente. Io ho una passione per gli antipatici, infatti sono qua con Marco. Un giovialone, un buon tempone, ci starebbe bene ai Nicola Fiore, Marre. Ma sai, ti porta il buon umore. Marre. Esatto, come la canzone. Allora, io davvero concludo con un appello. Sì. Signori di Sky... Signori di Sky, sì, sempre Andrea... che non chiami Campo dall'Orto, sì, no, perché sai che Fiorello ha detto però, ha chiamato signori Campo di Sky, e io appunto dico Nils Andrea, sappiamo chi sono, più Meloccaro per tutti. Ah ok, sì. Certo. Più Meloccaro per tutti. Tutte, soprattutto. Per tutte appunto. Ce ne vorrebbe. Ma sai qual è il problema, Marta? Che si è rotta la macchinetta, cioè non ne fanno più. Perché è modello vecchio, ragazzi, io sono il più vecchio esordiente della televisione italiana, cioè io ho esordito nel mondo dello spettacolo a 52 anni, ditemi voi se vi sembra la cosa normale. È giusto, è così quando bisogna late bloomers, quelli che prima o poi arriva che il sbocciano... destino, il destino arriva prima o poi. Sì. Ciao. Una cadetta appena di quella quarantina d'anni. Va così. Ciao. Grazie Stefano Meloccaro, lunedì mattina ci svegliamo tutti molto presto, sì, per Nicola Fiore. Sì, 4 per solidarietà con Stefano Meloccaro. Ciao. Chiocciola Meloccaros. E noi invece una brevissima pausa e poi andiamo a scoprire il futuro della TV italiana. Tra poco. YouTube. Dentro una palestra tutti i sabati alle 6, con la mamma fuori ad aspettare sui gradini, c'era un ragazzino, si chiamava Cassius Clay. Era una farfalla coi guantoni e i calzoncini. Cominciò così, fra il sudore e la speranza, ma lui era già un campione fino dall'adolescenza. Che bella questa canzone, anche Morandi ha ricordato Gianni. Cassius Clay lo ha ricordato sui social, sì. Oggi tra l'altro ha raccontato che si erano incontrati, sì, in Miami, sì, nel 1975, e poi ha ricordato questa canzone che in realtà era del 2004, scritta con Marco Falagiani, Cassius Clay. Sai che dico sempre che tu diventi famoso quando ti fanno una parodia, no? Sì, e sì. Diventi un mito quando ti fanno una canzone. Sì, tipo sì, sì. Senna, Bartali, anche Bartali. Parleremo di Bartali e poi Senna, sì, Cassius Clay, Nuvolari, vero, sì, vero, sì, vero, sì, vero. Allora, ascoltiamo una musica un diversa, po' diversa, un po' più frizzantiella, un po' meno poetica. Allora, perché? Beh, un filino c'è meno poetica anche, sì, nella politica. Beh, sentiamo. Beh, tutti sentono queste note e pensano Ballarò. E si parla di elezioni, e invece no. E noi non parliamo di elezioni, no, perché c'è il silenzio elettorale, parliamo di talk show. Sì, che TV sarà l'anno prossimo? Chi va, chi viene, chi dove va, chi dove viene? Allora, io so che il calciomercato si fa ad agosto. Sì. Più o meno. I palinsesti si fanno... E i palinsesti si fanno adesso, ora, perché intanto Girardengo ci scrivono, sì, Girardengo, fantastico. E i palinsesti si fanno in gran parte ora, perché la Rai li presenta il 28 giugno. Sì, tu ci sarai. Io ci sarò. Mediaset li presenta il 4 luglio. Diciamo che anche se non presentano proprio tutto nel dettaglio, le grandi linee. È ovvio che poi le grandi linee, i grandi personaggi non possono tacerli, no. Sì, perché poi sono quelli attorno ai quali si scatena la curiosità. E lo abbiamo detto, il più grande, due grandi interrogativi sono Ballarò, sì, e Virus non ci sarà più. No, non ci sarà più. Ballarò, Nicola Porro non sarà più sulla Rai, sappiamo. Pare di capire. No, non ha accettato la proposta alternativa che gli era stata fatta. Ma sappiamo cosa farà e sappiamo chi farà Ballarò. Allora, io e non Massimo lo so. Giannini? E Massimo Giannini? Allora, io non lo so. Non tu lo sappiamo. Sai? No. Allora, io mi rivolgerei. Però se cercano un po' stempiato. Uno po' stempiato con gli occhi azzurri potrebbe andare un Bellasio con un filo di barba. Sì. Secondo me i telespettatori possono anche confondersi. Esatto. Possono anche confondersi. No, in realtà io dico subito, a me Giannini a Ballarò è sempre piaciuto. Devo dire che Ballarò fatto da Giannini a me è piaciuto. Allora, questa però, siccome noi non sappiamo che cosa, sì, sarà, secondo me c'è qualcuno che ha sempre tutti i retroscena. Non so come faccio ad avere tutti i retroscena della TV. È molto noto in rete, ma non solo, perché ormai è diventato noto anche in TV. Lui ha uno dei blog che ormai è veramente una testata. Sì, sì. Più amati in Italia e più amati e più odiati da chi fa televisione. Buonasera Davide Maggio, ciao Davide. Buonasera a voi, troppo buoni. Poi Davide, per Davide io c'ho una passione mia personale. È reciproca la passione. Una roba che noi... Allora Davide, sì, non ti chiedo come fai a sapere tutto, però so che hai una rete di spie. Però allora, proviamo. Quali sono le ultime... Allora, intanto su Ballarò, abbiamo sentito, sì, la sigla di Ballarò. Quali, sì, sono le ultime indiscrezioni? Che cosa dà il TV mercato? Allora, il TV mercato dà Semprini di Sky come conduttore di Ballarò. Anche se, vi devo dire la verità, quando si tratta di politica, le novità arrivano sempre all'ultimo minuto e quasi sempre sono delle sorprese, per cui io non ci metterei la mano sul fuoco. Allora, non mettiamo la mano sul fuoco, ma direi al momento il più quotato è bravo, peraltro. Ma tu come lo vedresti? Appunto, come lo vedresti? Ma, guarda, ti devo dire la verità, Daniele, io non vedrei proprio Ballarò. Ah, ecco, questo è interessante, Perché? Perché io andrei a fare dei talk politici in maniera differente, e probabilmente ormai il salotto, così come strutturato e come lo è stato per negli ultimi anni, secondo me ha perso proprio la sua ragion d'essere, cioè non li trovo più efficaci come potevano essere un tempo. Per assurdo probabilmente rimane porta a porta l'unico che ha un suo perché, forse per la sua collocazione, quindi in seconda serata, ma francamente io sono per li andrei a ristudiare completamente. Beh, un po' come ha detto anche Daria Bignardi, sì, dicono di volerlo fare più snelli, più veloci, di un'ora. Sì, brava, soprattutto questo, perché poi diventa insopportabile. Infatti sì, ho apprezzato molto i confronti elettorali fatti da Sky per quanto riguarda adesso le amministrative che ci saranno appunto domani. Semprini. Ecco, per l'appunto. Però c'è cioè, una formula più snella, anche ecco, a volte i talk show politici se la cantano e se la suonano da soli, quando in realtà a me piacerebbe che il talk politico parlasse al popolo, cioè si avvicinasse il pubblico alla politica, e anzi magari si riuscisse anche a far tornare quella sezione che adesso non c'è più da parte del popolo alla politica. Cioè sono diventati, come dire, delle isole autonome. Verissimo. nelle quali appunto cioè, il contributo è proprio relativo, cioè sono delle vetrine più che altro per i politici, ma non politicamente, non appassionano ecco, più no, come esatto. prima. No, questo è molto esatto. interessante, perché spesso si dice i talk non appassionano più perché c'è la disaffezione. Tu giustamente sottolinei un aspetto che forse c'è una corresponsabilità di come è stata fatta la Bravo. Televisione sulla politica. Bravo, anche, cioè nel momento in cui ci si rende conto, no, che la politica non attecchisce più e c'è questo disinteresse generalizzato, se vuoi, a quel punto la televisione, per come la intendo io, potrebbe avere un suo ruolo nel riavvicinare il pubblico, in generale il popolo, alla politica, cosa che invece non fa. Molto perché rispecchia quella che è la situazione politica. Ricordiamoci che noi non andiamo, come dire, non ci sono delle elezioni politiche da un bel po' di tempo, e francamente anche da questo punto di vista c'è, come dire, una situazione che dovrebbe essere un attimo, no? Ma insomma, sai, elezioni oggi noi non ne parliamo, oggi elezioni proprio non si può dire. Allora, Davide, abbiamo sì. citato Porro, Nicola Porro, sì. Virus chiuso, anche lì con delle polemiche che noi non citeremo. Sì. Posso dire che i miei due talk preferiti? Evidentemente no, non solo il telespettatore. Non medio. Diciamo chi è il terzo, perché sennò il conduttore comincia a preoccuparsi seriamente. Allora, Nicola... Il sabato del villaggio mi piace tantissimo. Cannaggia. Va bene, andiamo avanti. Nicola Porro. Allora, sì. a Nicola Porro era stato proposto un programma... Domenicale sì. contro i TG, in pratica? Sì. E lui ha detto alle no. 19:30, quindi in fascia preserale, proprio fascia pre-TG. A pre-TG? Sì. Innanzitutto ti devo dire, il TG di Rai 2 è quello che va in onda più tardi, perché va in onda alle 20:30. Per cui è proprio dalla linea lui proprio al telegiornale. Un po' come accade con i vari quiz di Scotti e di Frizzi che danno la linea TG1 e TG5, lui avrebbe dato la linea al TG2 la domenica. Mm. E devo dirti la verità, probabilmente lui ha fatto bene, perché a me sapeva un po' di contentino dato al conduttore. Anche perché ha detto, se non l'ha mai fatto nessuno a quell'ora forse c'era un perché. Ma oddio no, a me queste sfide in realtà piacciono, nel senso che la Dalla Tana poi è una brava, il direttore di Rai 2, per cui poteva essere anche interessante, però dare la conduzione ad un conduttore, un giornalista, al quale è stato chiuso un programma, sapeva quasi di contentino, probabilmente, certo. ecco. Ma perché Davide poi, va a Mediaset allora Porro, secondo te? Sai che questa potrebbe essere una soluzione, anche perché io lo vedo molto sicuro, Nicola, e non mi sembra che si stia, come dire, preoccupando troppo della sua, non so se chiamarla epurazione o semplicemente cancellazione del programma. Diciamoci anche la verità, il programma faceva dei risultati abbastanza scarsi, se devo quindi lì è un po' insomma lì non... però si torna sì. Però, Davide, si torna molto a parlare del preserale, di nuove forme di anche quasi di talk, lo dicevi tu prima, sarebbe Marta. Sarebbe ora. Tipo ora. Andrea Barbato, no? Io me lo bravo. Ricordo. Bravo. Poi ci provò, anche Giuliano Ferrara su Rai 1. Certo. E il pre-post TG è una fascia interessante per posto che non dovete toccarmi i pacchi, anche lì poi ti chiedo qualcosa. Però anche Scotti, io sono una fan scatenata dei pacchi. Dopo io sono molto io con Scotti per ragione. lo so che non siamo allora preserale informazione allora guarda, io vi dico una cosa, non credo sinceramente, però potrebbe essere anche questa una soluzione. Poi sai che cosa succede? Che noi possiamo avere tutta una serie di fare tutta una serie di valutazioni, però poi in realtà chi decide spesso stupisce andando contro quelle che sono le previsioni è proprio il pubblico. Certo. Capita molto spesso che si dica però sai, l'informazione in fascia preserale non è propriamente l'ideale. Io per esempio in fascia preserale la vedo un po' dura durante la settimana, no? Ah, tu dici magari durante il fine settimana. Allora aspetta solo un secondo, Davide, perché sono 17:46, quindi diamo per un attimo la linea al traffico, perché ci sono quelli che stanno guidando che lo aspettano puntuale alle 45. Siamo fino in ritardo e poi concludiamo con questo discorso e ti devo chiedere anche qualcosa sull'intrattenimento. A tra pochissimo. YouTube. Rieccoci insieme con RadioTube, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola. Abbiamo al telefono il grandissimo Davide Maggio, che come vi ho detto sa tutti i retroscena della TV e ogni tanto sul suo sito davidemaggio.it lancia qualche boom. Ma io voglio parlare anche un po' di intrattenimento. Davide, volentieri. Voglio chiederti, Bonolis alla fine sta a Mediaset o va in Rai? A Mediaset. Bonolis resta a Mediaset, sì, quindi i pacchi io restano a Insin. La do al 99%, guarda, perché è brava. Io sono preoccupata solo per quello, brava. Il resto non mi interessa. Ok, Bonolis resta a Mediaset, sì. Credo che, tra l'altro, le trattative non siano mai state così avanzate come si dice. Ah! Credo allo stesso tempo però che la discriminante fosse il Festival di Sanremo. E presumo che magari, non so che tipo di contratto abbia fatto, perché a me risulta proprio che abbia già rinnovato con Mediaset. Mm? Non so la durata, non conosco la durata del nuovo contratto, però chissà, non so se normalmente sono contratti biennali, però vista la voglia di Festival di Sanremo che pare Bonolis abbia, chissà che non sia magari un contratto annuale, in maniera tale che poi nel 2018, quando finita le conti. Potrebbe iniziare la nuova era Bonolis, non lo so, potrebbe essere un'idea. Che Bonolis dovrebbe riprendere non a settembre, non dovrebbe riprendere col preserale con Avanti un altro, perché mi pare sia confermato Scotti con caduta libera, e quindi probabilmente ci sarà già nell'autunno un programma per un baby talent. Ah, un baby talent! Sì, in realtà potrebbe essere il ritorno di Peter Pan, ma a me risultava anche l'acquisto di un nuovo formato, bello tra l'altro, del quale ho scritto qualche tempo fa, e molto carino, che prevede un divano, semplicemente un divano, un conduttore che abbia un po' una vis comica, e Bonolis quando vuole la sa tirar fuori per bene, e dei bambini che si esibiscono al cospetto del conduttore, ma diciamo dei talenti validi. Ti faccio un programma inventato da Ellen. Ellen DeGeneres. Sì. Ah, bene. Esatto. Io ti faccio due domande flash. Vai. Grande Fratello VIP, lo fa Ilary Blasi? Credo di sì. Domenica Inn va Raffaella Carrà? Non lo so, ma io credo di no. Ah, ecco, tu hai qualche curiosità? La Cagnola? C'è qualcuno che cerca la Cagnola? La Cagnola potrebbe riservarsi delle sorprese. Ragazzi. Con delle piccole produzioni homemade. Sì. No! Sì. Ma io volevo la vita in diretta, tipo, non so, Uomini e Donne. Uomini e donne, che veste. Uomini e donne, trono over. Ma no, come conduttrici. Una bomba ve la voglio dare. Vai, la bomba. Di Davide Maggio. Mi hanno confermato la data una settimana fa. E io da qualche tempo ho un capriccio. Mi è venuta voglia di produrre. Sì. E l'ho fatto. Per cui il 17 luglio, sì, su Real Time, lo sapete solo voi, lo dico adesso. Lo metto su Outlook, lo metto già nel calendario. Il mio primo programma. Il primo programma di Davide Maggio, si intitola? Esatto, La Quinzaniera, ovvero le feste delle quindicenni sudamericane, le feste di compleanno, che col compimento del quindicesimo anno diventano donne. Quindi c'è questo passaggio dall'adolescenza all'età, quella degli adulti, e ci siamo divertiti un po'. Allora, Davide Maggio, che ne ha avuto per tutti in questi anni in rete. La mia paura è quella. Davide Maggio, che ne ha avuto per tutti, si espone in prima persona. Coraggio. Bisogna essere sportivi, coraggiosi. Coraggio. Mi piace. Vi dico anche una cosa. In realtà, sai quando si dice, no, ma sì, le critiche sono belle purché siano costruttive? Non è vero. Adesso che saranno gli altri. Volevo spaccare questo mito. Vi fidate sempre da chi dice sì, io adoro le critiche purché siano costruttive. Non è vero. Te la fai già sotto, molto bene. Grande. Ciao. Grandissimo. Ciao. Ti aspettiamo il 17 luglio, allora grazie, ciao Davide Maggio. Grazie, siete cari. Grazie mille. E adesso andiamo dalle mie parti. Andiamo con un po' di musica, vai. Dai, un po' di musica. Via, via. Vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. 40 anni! No, non noi, siamo più giovani. No, io qualche mese di più. Allora tu devi sapere che, sì, sai che maestro Paolo Conte di Asti. Ecco, un po' oltre, un po' più su, ci sono delle colline stupende, si chiamano Langhe. Sì. E al centro delle colline, quest'uomo? E al centro delle colline c'è questo paese bellissimo, Monforte d'Alpe. Non hai nessun conflitto di interesse con quel paese? Assolutamente. Nacque una persona senza la quale io non ci sarei. Esatto. Però non ho nessun conflitto. Però è un posto bellissimo. No, è veramente bello. Io ci sono stata perché è vicino, certo, a Dogliani, dove Dogliani, c'è il Festival della TV. De Benedetti. Allora, in questo posto stupendo, da 40 anni c'è un signore che di lavoro fa tutt'altro, perché è un medico, dentista e tutto il resto. Da 40 anni organizza un festival jazz pazzesco. Ma ce l'abbiamo al telefono, spero. Ce l'abbiamo al telefono. Fammi dire che il festival si chiama Monfort in Jazz, che è al suo 40esimo compleanno, che si comincia alla grande il 9 luglio con Ute Lemper. E io e che auguro... ci sarà il maestro Paolo Conte. Pensavo che ci sarà anche Daniele Bellasio. Beh, ci chiaro. Sarà anche Daniele Bellasio. Buonasera Renato Moscone, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, siamo pronti? Si inizia il 9 luglio? Sì, si inizia il 9 luglio, giù nelle Langhe, nel Piemonte, nel sud Piemonte, chiaramente dal mio accento si capirà, sì, l'origine langhetta. Un po' sì. Non sono così ben impostato come i personaggi che avete ospitato prima, vi chiedo scusa. Ma no, comunque. Beh, anch'io quando mi libero divento brianzolissimo. Sì, sì, sì, di Vim City no, precisa. C'è solo Daniele che tradisce, sì, poco la sua... origine, no, la diciamo anche l'angarola. Ah, di solito ai 40 anni si fa una festa tostissima, io appunto l'ho fatta lì nelle Langhe, quella dei miei 40 anni, ma e quindi per 40 anni chi c'è? Dici chi c'è? Abbiamo i grandi personaggi, diciamo, che hanno caratterizzato questi 40 anni, abbiamo invitato gli ospiti che più ci hanno voluto bene e sono stati presenti, per cui assolutissimamente non potevamo mancare Stefano Bollani con il nuovo progetto Napoli Trip il 22 luglio. Stefano è stato una decina di volte, credo, ospite alla nostra rassegna. Ci sarà Paolo Fesu con Omar Sosa e Jacques Morellenbaum, che presenterà il nuovo progetto Eros col nuovo disco, quindi un'altra grande data il 27 luglio. Ci sarà l'amico fraterno Ludovico Einaudi, che di questi, diciamo, di Monforte è vicino perché a casa a 3 chilometri da me, quindi anche lui è la quarta Tutti volta lì. Che ci sarà, e ci sarà Paolo. Paolo per la quarta volta, Paolo Conte, il grande, il maestro, il genio, che ci onorerà della sua presenza, perché questa lui me la promette sempre e io so che lui mantiene le promesse, per cui quest'anno anche non mancherà e chiuderà la rassegna il 6 di agosto. Ovviamente... Tra l'altro leggo 6 di agosto Paolo Conte e Barolo. Quindi... Tra l'altro, siccome poi lui ultimamente si concede... abbastanza poco, sì, è un'occasione pochissimo, unica. Diciamo, e questo è la verità, lui ha rinunciato a moltissime proposte, diciamo, ben più remunerative, perché lui ama questo piccolo posto, perché di piccolo posto si tratta, abbiamo un auditorium all'aperto, un piccolo gioiellino di 800 posti, quindi pensare di... avere ospiti questi personaggi che fanno migliaia di persone a ogni loro esibizione, immaginiamo appunto anche Ludovico Einaudi, che in questo momento in giro per il mondo sta facendo delle platee enormi di 4-5 mila, certo, persone per sera, quindi parliamo anche di Gregory Porter, che tra l'altro il 23 luglio farà una delle sue due date italiane, reduce adesso dei trionfi in Europa, ma specialmente in Inghilterra alla Albert Hall. Il posto è piccolo, tanto, ma è bellissimo. Dico che i biglietti ci sono già online, sono già online, si possono recuperare, comprare online oppure anche in tutte le prevendite, diciamo le solite prevendite italiane, per cui sul sito di monfortinjazz.it ci sono tutte le notizie per poter arrivare ad avere qualcuno di questi preziosissimi biglietti. In effetti la bellezza di questo posto è che c'è un connubio talmente speciale tra pubblico e artisti, perché il più distante è a 20 metri dal palco. Allora, corriamo a comprare i biglietti. Grazie Renato Moscone, monfortinjazz.it. Daniele, alla prossima settimana. Si mangia benissimo, si beve benissimo. Alla prossima settimana, dove si può parlare un po' di politica, forse di vino. Alla prossima settimana.